ciò che hanno fatto subito, capito? E poi uno con il blocco dice, ti si accetta la radio da solo, vabbè. Vabbè, l'acqua lì per me no. Non mi va di parlare di queste cose, che poi mi cazzo, mi gira e balle, mi cubo a terra, la giura, e poi mi faccio male. Ti prendi Gianni, Alessio, Natalino, Luca e Pinangelo, che voi siete spenti in baracchini con l'eco. Io leggo sopra, mi non leggo la baracchino. Non mi stai rompendo i coglioni, dovete parlare bene. Guarda che l'altro giorno sei fatto male su, mi parla due ragazze. Va bene, c'è gente che ascolta, cioè. E c'è una Serafina. Serafina, Serafina. Serafina, passa al 41. 27.415, aiuto, mi sono rotto la bava. Chi è che va lì con uno? Hola, hola, allora? Come si chiama? Delta 1. Splitta, splitta, buonasera a tutti. Ci avevo lo splitto inserito, stavo chiamando sul 41 e ci avevo lo splitto inserito qua. Faccia 41, guarda. Va. Ci vediamo più tardi. D'accordo. Sì, 7, 8, 9, 10, 11. 15. È un'altra cosa, il computer è nuovo incasinato. Quello lo dicevo, è ancora incasinato. Lo fa, mi faccio entrare su Google, arriva un sacco di finestre, il mouse va per i carti su, quindi è di nuovo tutto incasinato. Vabbè, mi ha fatto incazzare la disputa a terra, se poi lo metti nella strada, parlamoci. Vabbè, quello ne parliamo. Allora, adesso ce l'hai a 5, mettila a metà quel mic. Così a metà. Buona. Mettiamola a mezzogiorno e 5, per dalle un'altra attacca. Così, ecco, un'altra attacca. Bella. Non è il processore. Dalle un'altra attacca, praticamente a 7, no? Perché a 5, a 6, a 7, vedi un po'. Così è a 7. Bellissima, molto molto bella. Allora, adesso abbiamo quelle due tonalità, abbiamo letto, quindi siamo in on, però siamo in cut, così è. Allora, adesso siamo in... low, che sono i medi, metti gli alti a vedere, guarda un po', questa c'ha più toni acuti, però io preferisco il low, perché ti smezza la modulazione e in pratica c'hai alti e bassi, così quindi, sì, non c'è dubbio. Andiamo nel massimo a questo Mike Gain adesso, vediamo come si comporta. Così al massimo, e mi sta staccando largo. Perché è un bel alta. Ma devi tenere a 7, Franco, Roberta. A 7 e 6 a poco. Ottima modulazione, 5, perfetta, amplificata, bella pulita, forte. Benissimo. Peccato che quella radio non abbia il processore, perché altrimenti dovevi dimezzare tutta la parte lì. Adesso sta spingendo molto il microfono. Ecco, così è a 7. Tendo conto che l'ho aperto al massimo da dentro. No, ma va benissimo, non distorce niente, nulla. Niente. Capito? Va benissimo. Qui si parla di microfoni seri, quindi c'è qualcuno. poi sì, dopo aspetta, sono fermato sul canale 10. Prima di cliccare e di entrare sulla pagina delle radio amatori, delle radio amatoriali, c'è il virus. C'è un redirecting. Vabbè, non fa niente. C'è tutto il sistema domani là. Ah no, cazzo, domani sono dal dentista. Vediamo un po' da di liberarmi una mezz'oretta. Infatti io sono a casa. Cioè non vado a lavorare neanche domani mattina. Domani mattina, domani sera, ancora ma fino all'11. Fino all'11. Capito? Rientro l'11, da lunedì, mercoledì mi ritiro il tempo e mi vado a andare a malattia. Domani è martedì, mercoledì festa, giovedì festa, venerdì, sabato, domenica, lunedì se viene. Ah no, allora già lì sa, girati le palle a fare la testa a sinistra. Ma neanche per sogno, guarda, neanche per sogno. Non ci sto manco pensando a un attimo di tutto, nel riposo, eccetera. Ah, siamo riportati a quel capo, sì, cazzo, l'ho dimenticato di dire, no? Domani mattina me lo carico in macchina, sono andato a lunedì qua, domani mattina mi carico in macchina. Ah, io amico mio, così dovrei attaccare il capo, di luce fuori che mi ama prendi, Anna. L'attacco la luce e via, intanto sono presa qua sotto la scrivania, con il produttore, metto il produttore, così quando c'è pure la... accende, perché se non riuscire a accendere la buia non si vede il cacchio, capito? Vai bene, no? Un gozzo, un battore. ripeto, se c'è notte non ho capito con appena e poi te lo stai a casa tuo. Io già vengo col disco, lo butto dentro e poi glielo ributto, non c'è problema. Ma tu sai, non è vero di quei filmerini, c'è un casino. Ehi, già ne ho, c'è un CD. Infatti lo devo cercare perché me l'ho comodato. Le vado da qualche parte, no, ma già lo trovo. E io qua non metto più di lui, anche qua adesso caricato. E poi fra, Delta, mi hai facilito Stefano, con, come cavolo si chiama? Ron Water Illusion, dove tu c'è un icono, clicchi lì e ci sono le cascate, ci sono delle immagini, così delle fotografie, no? Molto bello. Prima tu cliccavi e uscivano direttamente le fotografie, ci sente il rumore dell'acqua, tutto, non proprio sembra dal vivo. Adesso tu clicchi lì, appare l'immagine, e assieme all'immagine ti appare una finestra che ti devi, devi registrarti nel sito. Invece prima non c'era niente da registrare. Perché quella è una versione dimostrativa. Quello si chiama un shareware. Praticamente ti danno 30 giorni di prova, poi se tu lo vuoi lo acquisti, se no ti compare sempre con la mascherina, capito come funziona? No, no, non devo comprare niente, allora ne lo togliamo. Allora ne lo togliamo, pure le bolle, non devo comprare niente. E beh, ma pensavo che fossero cose, cose che non andassero bene, capito? Vabbè. Questa luce non ha qualcosa, boh, non me la metto, vabbè, comunque è meglio che faccio lo controlli tu, non si sa mai che andare a cercare qualcosa, magari boh, ho cancellato, ho fatto, ma non credo, perché funziona tutto perfettamente. E già ciò controllo io, oggi ho controllato quello di Giuseppe, che era un po' carino incasinato, vediamo domani, sono dal dentista, devo sempre facessi male un apparecchio, quindi sono incasinato. Vediamo un po' dopo domani se faccio in tempo. E poi se ho pubblicato il sito, Oh, allora vorrà vederlo, quello dell'Ari? Sì, sì. Com'è, www? No, arisassari.it, senza www, http://arisassari.it. Le robe TCP ci sono, me l'ha contenuta, la prossima volta lo vedremo. Ok, quale farà? E prendi? Riprendo, vai, chiudo. Mi seguo quel film che c'è televisione. Te l'avevi ascoltato domani. Ciao Franco, ciao Claudio e ciao ascolta le brusselline. Ciao, domani ti porto su quel cavo, allora ti faccio una massa, vediamo un po' di sistemarla quella lampada. Capito? Ehi, ehi, andiamo, oggi non ti ho chiamato, mi sono anche di 24, ti devo chiamare, tu sei andato a caricare il mio telefono, sono tornato a casa qua e mi sono venuto qui, va bene, domani mattina all'inizio ci sentiamo, così all'inizio te lo ricordo, Va bene, ma non capisci questo chiaro, questo cavo qua, con il chiodino vuoi fare, ho sotto traccia. Con le chiodini e lo facciamo entrare nel due buco dove entrano i cavi delle antenne e lì pure questo vicino alla sala cinese le mettono un interruttore di quelli accesi e spegni senza stare a girare andare a balle, capito? Okay. Va bene, vai, va bene così. Ah, buonanotte, me lo carico, ecco una stazione di mezzo ti basta. Beh, cos'è, lì va a mettere il pullo dentro e dentro, la cipolla, una decina di metri, non di più, 10-15 metri. Vabbè, una mattina me lo carico in macchina e lo portiamo su. C'è quel cavo, è tanto antifiamma che va molto bene, quello tubolare, che è di lusso. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao Franco, buonanotte, ciao Claudio, e penso alla scultura, per me quella ritira, stanno scrivendo giù. Ciao Fra, salutoni, buona giornata per domani, ci sentiamo domani al limite. D'accordo, vai Fra. Ehi, ciao Fra, ci sentiamo domani, va, stiamo bene, alla prossima. 100 e passa, sale adesso. Senta, 19, 25 liscio qua, alla grande. Ce l'hai, ce l'hai? Beh, sono soltanto con l'apparecchio, c'è soltanto con l'apparecchio. Qualcosa non ho provato ancora, ma non lo provo per il momento, lo provo un altro momento. E non per quello di metterci... No, io la bicicletta non l'ho ancora attaccata. Ce l'ho già pronto, l'ho messo dall'altra parte per fare i cavi più lunghi, mi capite? Però l'ho lasciato così. L'ho lasciato così. Ma lui, quella appena sono tutti i cavi, quando è andato lo trovo sul... su questo qua, ma sul 920, ma lo stesso vediamo. E mette nel vari figli, tanto ti dico, e lo finisco cerca, e ci sono i sei, per fare il target, ma come la testa lo canto, perché devi tirare chi, non è così, ma... non c'è più dialogo, non c'è più dialogo, ascolta a me. Sempre di guardare con l'eco di cose che a me poco allora mi sposto e faccio così o diverso, ma poi devo andare a letto, mi porto, ho fatto tutto lì. Ognuno la pensa un po' come vuole qua. Ah, va bene, chi te lo proibisce se ti spostarti o meno? Non ho capito. Ma infatti, io non ho problemi. Quando sono questioni interessanti rimango, ma quando no, se roba non mi interessa, quello appuntamento con Franco, infatti a fare due regolazioni. Allora mi sono portato per casa, capite? Tutto qua. E ci ho messo molto meglio. Aumentiamo un pochetto. Questo spinge, spinge, spinge. Ecco, io devo rimanere così. Quello mi ha messo tu da stare. Sì, ma tornava di luce. Lo sai tra cosa abbiamo fatto con Tino? Ho fatto inserire all'interno dell'MC60 le due batterie ricaricabili, no? Per cercare di dare un po' più di alimentazione al circuito, visto che la sua è chiusa. Senti che differenza che c'è? Sì, l'ho sentita anche l'altro giorno. È più spinta. Quando viene alimentato bene, spingi, no, va benissimo, io ascolto benissimo. Vabbè, dammi una valutazione, da 1 a 10. Da 1 a 10, per l'amplificazione ti do 8, la modulazione è 9. Sono nella media. Perché sì, rispetto all'altra spingeva la vita e spingeva, però era molto più corposa, invece questa è talmente chiara, bella, che le parole che dici sono, come posso dire, sono nitide, là invece quando rimaneva troppo corposa è come che si mangiavano le parole. Anche se era forte, perché era forte, però questa è molto più chiara, più bella, metteci di più. Vabbè, si tratta sempre che lasciando una certa regolazione, più usi l'apparato, magari più sale di fatte, più spinge, e quindi è logico che magari la regolata, non dico proprio, ma quasi, quindi è logico che cambiava un pochino. Poi magari capita anche o che ti avvicini un po' più al microfono, o che dici una parola un po' più veloce dell'altra e qualche cosa te la mangi. Vabbè, no, ma non interessa, l'importante è che ascoltate bene. La radio è quella, quindi non c'è da sbagliare, ecco. Va bene. Io sono pronto a fare un'altra prova. Altra prova? E cioè? Allora. Ok. Così sono... Dopo. Aspetta. Guarda adesso. 9:25, 9:40 si è andato. E sono a 1, aspetta. Che faccio un po'. E sono appena a 1. Opa, che non ho fatto caso io. Mettiti a 0, cioè a 0. Tu dici la prima posizione. Così sono con l'apparecchio. La rotto a 9:15. Allora così sono con l'apparecchio, allora aspetta che abbasso. Ecco, qui sono a 20. Così? Allora sei fra la 7 a 9:15. 9:15. confortante. Io parlo di picchi positivi, sì, a 9.15 in picchi. Aspetta. Ah, roba che è stretto. Attaccare indietro, perché 9.20 ce li ha, gli usciti a regia. Sì, sì, c'è il menù, c'è scritto, sto guardando. Vedi? Stavo guardando, già inserito amplificatore on off, ho messo già in on, quindi le due uscite sono già pronte. Dopo lo proviamo a vedere. Io penso che scrivi di fronte quello, che ne dici? Su quello, quello secondo me sventola. Quello più di mille ne va. Comunque sappio che ovviamente c'è il ritardo fuori, lui non si sentiva più uno. Perché il calendario fra mai l'811 è arrivato a dietro? No, ho telefonato oggi a Cerale CDA, hanno bloccato Olbia. Perché non hai avvisato a Sciusciu che stavo comprando la luce? No, ho chiamato Sassu, prima ho chiamato stamattina e in sospeso, perché qua che è partito il 29 addirittura. Poi ho chiamato stasera e noi dovevamo fare una Olbia, quindi domani mattina molto probabilmente tanto pomeriggio me lo consegnano. Vuol dire hanno fatto casino scaricando, mettendo se c'era la ruota, c'erano pochi vestiti da una filiale all'altra, capito? E vabbè, è importante che non ce l'hai più quella là? Sì, io ce l'ho sempre quella. No, vabbè, fa parte del mio. Ma se fosse troppo bene, cioè, le avrei potuto anche dare, però sai, io un veicolare lo voglio perché se capita che vada tutto bene, me lo metto in macchina. Sono dopo me lo devo ricomprare. Ma di tutto non bisogna andare, si manda di casa. non ci sono, e chi se ne fa? Avrà fortuna. Non tengo di niente, non tengo di niente. E quando sono qua, sto guardando il prova, sali, scendi, fai, se gli esercizi non stanno bene, guarda, mi ha fatto un casino e basta, va bene. Cioè ci sentiamo, ci vediamo sicuramente. Guarda. Sì, ciao T, buonanotte e buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime. Bye bye, un bacio a Pupo. Hai chiuso un proposito, ma ho la paura e poi faccio un po' di video tutto. Ciao, replica. Sì, faccio la salta, ma tu dici non c'ho le cuffie in testa, io lo soltanto su 10, non c'è più nessuno. Siamo soltati qua a noi per fare la prova. Non credo ci sia più nessuno comunque, babù. Ciao, ti alle luci. Riprendi fra. Beh, ma se non usi l'amplificatore, frate, mettilo com'era, No, no, no, faccio, sto provando a vedere se, ma sono pure accorto, aspetta che è accorto, vediamo un po'. Allora, cosa sta 1, 11, RAF 7, 2, così come sono? È un bel fatto, ma la modulazione sta andando a mancare. Sono uno, ma la cosa che hai fatto prima, uno era andava bene, adesso invece stai praticamente smontando troppo la radio. Così è come poco fa, così dovrebbe andare meglio. Così va bene, così è la sua modulazione con il segnalone eccetera, ma prima ti toglierà troppo la radio. Perché stavo cercando di accordare e qua sono un po' su, però già va bene, dai, a uno siamo quasi 100, quasi 100 cosa? 108 l'ingresso? No, l'ingresso ne sto dando 7 8 cambia così tanto, non può essere, non può essere, da 25 a quasi 40, io non può essere, fratello. Allora scusi, anche io con 9,20, che ho 25 watt d'ingresso, una M, ho 25 watt d'ingresso, al quello nero, minimo minimo, nel 150-200, 150 watt, però. Vabbè, questo è un altro tipo di costruzione, tu ce li hai quattro in parallelo, queste sono in serie, è un altro tipo di circuito, infatti vedi, io sono uno e sono tranquillo, però vedi già quello, così vedi, devi te ne stare, qui sto passando a 2, dove devo passarmi la radio, ecco, qui sono a 2. Così si guarda a piedi, tu non avevi il picchio, adesso si guarda a piedi, sì, vabbè, ma le mie sono in parallelo, così è, e con 25 watt li dà 100. Sì, con 25 watt sì, il mio problema fondamentale è che più di 50 adesso non ne posso dare, capito, modulati. Io ne ero 25 in AM e ne ero 100 in banda con 9,20 e così vediamo quale se va, per me va un bel lo so perché l'avevamo già provato. di accettanti sino a 80, 90 e 100 watt di ingresso, quindi più ne dai e lui più fa. Ma quello tuo invece c'è al minimo, quindi più di 50 non puoi darle. No, no, ho provato, però mi ha sfondato una valvola e quindi preferisco non farla più quella prova, capito? Insomma, ne può arrivare altre 4, perché una quella che avevo scoppiato mi è arrivata, devo cambiare, infatti ci vedo nuova nuova, infatti tira che una bellezza. No, no, beh, il mio, quello non era morto, già l'hai visto, già l'hai rimesso a posto tu, quelle valvole che ha, quello 100 watt d'ingresso, se poi ne hai 110, non le va tenute, lui più ne ha e più ne tira fuori. Infatti lo voglio attaccare a 920 per fare la prova in AM, capito? Proprio come AM. E poi il 7100 attaccarlo come HF a vedere nelle altre bande come va, oppure attaccare direttamente il 7100 e vedere come si comporta in AM in banda laterale. E qua poi tieni conto che sono fuori accordo, però se scendi giù tipo il 10, il 15 posso tirarlo ancora. Sono fuori accordo, devo vedere di 9.40, hai lo stesso segnale di Gianni, capito? Di Gianni con l'omologo, perché se usa più potenza arriva appena più basso di Franco. Dopo Franco c'è lui. Ho 9.40, tenendo conto che si distante, certo c'è un segnalone qua. Minchia, si ottenente. Ma io lo metto in funzione la signora. Lo metto in funzione, solo e poco lo metto in funzione, dove? Che non so dove c'è lì. Ho cambiato la cassettiera, sì. Sai la faccio domani mattina. Metto il televisore lì. Sì, metto il televisore lì e quella cassettiera me la porto qua, che è così anche nascosto. Sì, faccio proprio così, perché il televisore qua può disturbare la radio. Vicino alla finestra lo metti. Sì, lo metto di stanza. Faccio il cambio romano e ciccia e rubro, ecco, adesso sono senza. Sì, adesso sono senza. Prova a segnare, per quante? Ora, 1, 2, 3. Prova. C'è 9, 22, 23, senza. Quando attacchi di 9.40, va solo pronto, è un bel allucinante. Ma possibile, cioè quante volte c'hai adesso, liscio? Adesso sono quasi 50. Va da 50 a 100 a cambiare così, cazzo. Perché l'ingresso tu glielo dai fisso, come da me, vedi, io adesso ce l'ho fisso, tanto di più non va questo apparecchio, capito? Quindi sono tranquillo, non è come il 59 che arriva fino a 100. E là cosa succede? Quando tu gli dai 50 d'ingresso, puoi pilotare gli altri 3 che sono i finali in realtà. Io cosa faccio? Prendo un micchio con gli accordi e riesco a portarlo fino a 100, capito? Esatto, quindi l'accordo non va, è come 9.20, c'ha 25 watt M, tu lo puoi toccare come vuoi, lui c'ha 25 watt, quindi va bene per fare quel tipo di lavoro lì. Però con quello nero, con l'altro, quello di Arezzo, non su piatta, quello lì. Quello, siccome c'è 100 watt l'ingresso, lo posso attaccare al cable, qua attacco 50. Mi sa con 50 watt fisiche digitale, ma lo regge benissimo, perché ho fatto la prova anche di notte quando lo rinnovo il metro. C'è l'alghero. E va benissimo, infatti la radio è fortissima, il segnale è fortissimo. Succede, cosa succede? Quando io mi ero 100 di botto, c'è la valvola di preaccordo, che sarebbe quella che mi accorda l'ingresso, che praticamente si fonde, perché giustamente non ce la fa. Allora c'è che te sempre quel limite l'ingresso, capito? Invece da te è diverso, da te 80 mi dai, e quello 80 e più te ne spinge fuori. Invece da me non è così, capito? Io per buttare fuori il fatto che butti tu, devo giocarmi con le manopole. Ma gli dico questo picchiaffo. Sono convinto che non va bene. Adesso ora attacco il, come si chiama? L'accordatore dello strumento per vedere la potenza. L'accordatore delle. Oppure glielo metto senza accordatore. Ascolta, senza accordatore posso usare l'accordatore dell'amplificatore, no? Tu c'hai il preaccordo come ce l'ho io, puoi accordare l'ingresso e puoi accordare l'uscita, no, no. Quindi senza bisogno di accordatore direttamente da lì non mi accorgo, se tanto me ne accorgo dal lago, quando sale l'ago vuol dire che sta accordato. È fatto apposta, anche perché dopo se sei fuori accordo ti ne accorgi, perché se la prima cosa che fa è tanto fusibile, ma poi non ci va mai fuori accordo quello lì. Una volta ho fatto la prova con questo, io ho staccato l'antenna, tu pensi che mi ha accordato il pezzo che va dall'amplificatore all'ingresso dell'antenna, ho già staccato l'antenna, ho cercato di accordarlo perché volevo vedere quanto saliva, senza andare in picco, il fusibile è crepato. Sì, ma questo già c'è la protezione. Ma già me ne accorgo, perché quando c'è il dubbio strumento ce l'hai visto, no? Ce l'hai usato. Quindi una volta che io schiaccio la portante, lui mi indica già la potenza che le sto dando l'ingresso. E l'altro strumento vedo, lo accorgo e me ne accorgo. E me ne accorgo, sì, no, non me ne faccio questo cambio. Quindi proposto alla professore a Cancun, il televisore dall'altra parte e niente, il televisore dall'altra parte la cassettiera me l'ha portata dall'altra parte con l'amplificatore e via, mi sono messo le palle con quella cassettiera da Novi là sotto qua, ma questa mi serve la cassettiera qua, mi serve. Sono un casino, un sacco pesante, sono le mie apparecchiature, è un casino, ho i due burini ancora. Sono con un comunicatore sotto il carrellino del computer che ha finito in Europa, mi si è curato in casa. Guarda, vai al Brico di Città Mercato, io me l'ho preso con gli amplificatori dell'impianto. 35 euro in offerta, c'è il carrino con le ruote, quello a griglie, è fenomenale. Invece gli ho messo i due amplificatori, quello grosso e quello piccolo, che pesano un bel, eppure vanno benissimo, è piccolino e ci sta benissimo il tuo amplificatore, vai tra guardi. Infatti faccio così, perché devo sistemare le cose, cazzo. Devo sistemare, non posso tenerle così, è un casino, c'ho troppa roba messa da parte e poi alla fine mi si rovina e non fa. Allora non mi accorgo, la uso, capito? La uso, non ho previsore più, lo tolgo da qua, intanto quando la sento fa il rumore di alternata, perché è troppo vicino alla radio, entra l'armonica del microfono. Sono ancora quello che mi ha detto, quindi non credo che l'abbia messo vicino, quando poi non lo posso tenere acceso, perché si sente questo rumore, non lo rimetto in fondo, e mi porto da questa parte, mi porto da questa dietro. Sì. No, ma tu cazzo un po' di una ragazzina. Ma proprio la base del ciccione che mi sono rotto da cui un passo. Sì, puoi fare così. Ma perché quello hai già visto, l'hai visto il carrellino mio, quello che c'era a fianco alla console. Quel carrellino lì, ci sono due c'erano, rimette sopra e rimetti gli amplificatori. E sotto rimetti gli alimentatori. Che prende una tindina, la fai fare da Anna, una tindina e gli ricopri gli alimentatori e sopra gli lasci l'amplificatore. Ma sai, dico, gli alimentatori non sono così giramento di balla, anzi ti dico che mi sai di ritorno dopo gli omessi, ma mi vado dentro di poco di più di una volta. Qua sono a casa, non esco domani mattina. Se ti vuoi fare un salto, fatelo, se magari devi finire, poi gli dici tu, se la giornata è bella, prendi la moto, ti avvicini. E poi dopo tutto la sua di nuovo domani, lo sai. Gli allenatori me li metto fuori. Mi metto sotto questa scrivania qua. Devo studiarla bene perché voglio fare le cose fatte bene, se no è una rottura di balle. Vabbè. Che sono? Sette di 11 sono. Le 11. Siamo arrivati alla capolinea, a Sergiugo, così l'aria trova a mamma. Questa radio va, non lo mettere in già, 140 lo spegniamo, va prescritto. Questa cos'è? 525 lo spegniamo, mamma di sciugo, 433 è rotti, e ancora 7. Niente, mi ha spostato l'11.60, l'ho messo al centro, l'M100 a sinistra e i due SM20 a destra. Tanto l'M100 è quello che uso con l'9.20, perciò lui un po'. Ma io fratta, fammi vedere il 140, cazzo. E così torniamo per la roba, porca puttana. E a chi lo vedi qua, se non li vuole nessuno, va di tutta la tremarella. Gente che ha trovato la tua, io non riesco a capire. Uno come me che ha trovato una vita di Ferrari, vado a sentire queste cose, con un signore bello, ma no, perché voi accendiamo niente, nessuno me la guarderebbe. Ma perché non conto se c'è un comprare un baracchino, 400 euro, cazzo non prendo, c'è un bel 140, 300 euro, completo di tutto, cazzo, per avere uno a fianco, non ti caga il cazzo, nulla, non ti disturba, come che non esista, no, un chisci baracchini, un letto, un chisci cazzo modifiche, contro modifiche, ma per carità, guarda, non mi dispiace anche sentire queste cose, perché veramente, cioè, mi sento, ma non io, perché uso apparecchiature genere, ma tantissima gente, tu, fatto, cioè, ma tu prendi Luca, cazzo, Luca Flipper, cioè, è suo piccolo, cazzo, però ha capito quello che veramente il mondo della radio e continua a comprare radio di questo tipo, fa bene, io lo ammiro, io fa bene, se cazzo io se lo vado in pesa, l'avevo trovata la volta a comprare un baracchino da 400 euro, i usci non te lo nessuno, perché uscirà bene sicuramente perché escono bene, senza avere dubbio, a me non piacciono come escono. Con tutti i filetti, con tutti gli altri grossi, però chi piace, non ha tutto caso a me. Ma i colpi che prendi, lui, adesso ho speso 400 euro o 100.000 lire delle vecchie lire, per che cosa? Per avere un baracchino è quello, lui c'è un baracchino. Quindi io dico, ma perché, cazzo, perché la gente non capisce veramente qual è il mondo vero della radio? Mi dici un M60, un 140. Tu sei arrivato, non hai problemi di chiedere controllo e modulazione, niente, bello, forte, che è meglio di così non si può uscire, senza sound, TAM più 3, TAM più 2, M più 4, M più 5, 36, 46, 52, tu fai io di cose invece, 1.000 euro e 9.000. purtroppo le idee sono diverse e quindi è così. Ma io sono a parere che ognuno le proprie tasche ne fa quello che vuole, lui. C'è gente che lo capisce, c'è gente che non lo capisce, due se ne accorgeranno cosa voleva dire. Perché adesso c'è il problema, che mentre noi vogliamo andare, cioè fare radio, gli altri non gli do torto, perché se uno dice no, noi facciamo 27, mi vuole usare 27 punto e basta, allora io gli dico vabbè, se hai 27 prendi un malattino, fallo su di voi, allora, cioè, effettivamente spendere 400 euro per un malattino io non l'avrei mai fatto. Io sono d'accordo, non sono d'accordo. Sono d'accordo con te, ma non sono anche d'accordo su certi punti, perché non c'entra niente, non c'entra niente fra. Nessuno sta dicendo che sei per forza invogliato ad andare a fare l'esame un attore o andare a fare delle cose che non vuoi fare. Ok, nessuno ti obbliga, tranquillissimo, va bene. Ma se tu vuoi veramente avere una bella radio a 300 euro, che cazzo parlano di 400 euro, Baracchini della Midland, tutti modificati, 4Z, la fabbrica di Zinco Trento, chi compra radio sicuramente molto bella, per la 27, il tocco di poco, tipo Magnum, queste robe così, a 400 euro lo mattesce. Io non sono d'accordo, perché non sono d'accordo? Dico, se effettivamente ti piace la 27, comprate un bel 140, ti metti un bel 1260, nessuno ti può più dire niente, né che stai scendo male, né che, perché cazzo non c'è per nessuno, sono le migliori radio in assoluto per la 27. Quindi c'è questa paura, paura di che cosa? Allora, lo fra, c'è un tanto di normativa del tubercolosio perché hai avuto modo di vederla e di studiarla, no? Come si dice, sei più in regola avendo un 140, trovandoti con un 140 in possesso dell'SWL, che con un garantino non ho lavorato, fra. Perché tu lo sei dirigi una mattina per la chiara. Tu puoi sempre, a parte fatto il soldi che non mi portate a capo, non ti posso dire. Io l'ho comprato perché sì, ho recentemente, ma io non lo uso. Quindi un cappino, tutto e basta. Non sei costretto a toglierlo perché tu ci hai una ricetta di ascolto, ma fai altro che dici e lo lasci nella frequenza amatoriale se ti dovesse suonare una campanella. Se ti trovo una macchina non ho tipo Galaxy, tipo Magnum, tipo cosa di Mussolini, tutto quelli perché quelli conoscono in radio, sento sempre parlare in queste radio. Qualsiasi tipo di macchina non ho incurano fra, incurano. Perché la legge è molto chiara, tu sei in possesso di un'area non omologata e quindi quella è sana. Se invece sei in possesso di un apparato a pezze, anche se lo usi, mi devi dimostrare che lo sto usando, non ti fanno niente, perché tu hai la licenza di essere più SWL. E tutti quelli che hanno paura di fare queste cose, sono in possesso della licenza di essere più SWL. Per cosa cazzo te l'hai presa questa licenza? Per fare che cosa? Capito? Cioè, il discorso è quello. Non è che voglio insegnare niente a nessuno, per carità, ognuno rispetta il libro di fare ciò che vuole. Io la penso in una maniera molto molto semplice, che è quella di far capire alla gente che funziona in quella maniera lì. Se veramente uno vuole uscire bene e non crearsi problemi, se dentro io sei pinnelli, ma vai a una radio, c'è la radio con watt regolabili per 0 a 100, che puoi sfruttare quando vuoi, no? Nel bene e nel male. Hai un ricevitore che fa paura, hai tutto quello che vuoi, hai una radio a 300 euro, completa di tutto, senza buttare via i quattrini, evidentemente la gente ne ha più, e quindi sfruttano queste idee nel migliore dei modi, nelle loro idee, però io non sono d'accordo, forse per effetto perché vivo in un mondo diverso. No, perché c'è avere belle radio e fare radio in una certa maniera, cioè quando esco uscire a questi livelli anche nella 27. Io sempre 27 li ho usate queste radio, non è che li ho usate in HF. In HF uso altri tipi di radio, ma per la 27 per me questo è un baracchino, questo è il mio baracchino della 27. 7, non si discute. Purtroppo nessuno, cioè non tutti la pensano come te, e quindi lasciamo rifare, cosa vuoi che ti dico? Ognuno poi deciderà cosa fare. A me non mi interessa, faccio quello che voglio. Io vedo la passione, la sfrutto finché la posso sfruttare, e poi quando sarà sarà. Non tutti la pensano come noi. Va bene. Sì, ma non è questione di polemica o di quello di quell'altro. Si cerca sempre di consigliare la gente nei modi migliori, come a me mi hanno insegnato ad usare questi tipi di radio già nel 1980, perché ho capito veramente a cosa servono effettivamente queste radio. Sì, servono a farti sentire bene, servono a ricevere soprattutto bene. E non è vero che è male, perché anche il conto io quanti ne ho vicino, per me come che non esistano, capito? Loro magari mi sentono, non lo so. Io cerco di trasmettere sempre molto tranquillo. Ma io non sento nessuno, ma non hanno tutti nulla, cioè come che non esistano, capito? Quindi dico, perché tu devi comprare un baracchino a 400 euro quando poi se io ho necessità o chiunque abbia necessità di spostarsi, non si può spostare a chi tu più i colpi. Lascia perdere chi non può, basta. Ma chi veramente può e chi veramente ha due linee disponibili, secondo me sbaglia a comprare quelle radio, perché non servono a niente, cioè sono cose che non fanno bene, voglio guadagnarci. Sono un cigato, che cosa va giù? Poi è giusto che chi vuole ormai 27 prenda la 27 come scherzo, per divertirsi, per fare quello che vuole. Io sono abituato a fare queste cose. Sì, mi posso sbizzarrire, dire due cronotate, 5, 10, 15 minuti, ma l'altro si fa tutta la sera scarpiere e fette. E allora preferisco fare silenzio oppure crearmi un altro cuscino, dare un altro canale, prima. No, è che nessuno si deve offendere per te, ognuno di due fa ciò che vuole. Quando non c'è dialogo, non c'è così di discussione, uno cerca di crearsela in un altro modo, no? Come facciamo a volte noi, ci scordiamo, eccetera, eccetera. No. Comunque, i pareri sono diversi, si continua sempre a cercare di capire, cercare di sapere. Perché? Vabbè. Ciao Claudio, salutoni, buon proseguo, vedo un po' se ce la facciamo passare domani, dai, vediamo un po' come si mette la giornata, perché domani sono in Riacidino a scuola giù alla Zeroce, con gli esercizi sono un casino, sono troppo incasinato. Vabbè, dai, vedo un po', al limite ti faccio un colpo di telefono. Ciao. Già ci aggiorniamo al telefono, non c'è problema. Così ci sta per dare un'occhiata a vedere un po' se si è sfruttato qualcosa, se c'è qualcosa che dobbiamo inserire. Oppure buttiamo dentro anche due film e qualcosa, così non so se sto qua, ma mi riguarda. Dai. Ciao, ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte, grazie. La radio lasciala così come l'abbiamo ordinata. Quindi ti ricordo, la posizione del microfono è quella. Lo puoi tenere 7, 8, tranquillo, senza nessun problema. Quando poi attacchi già te li hai già fatte le regolazioni, quindi va bene così. Ah, sì, sei attaccato a 8 staccato. È a 1 la posizione. E va bene, d'accordo. Ciao, caccia.